Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. E allora, come si apre la settimana? Si apre maluccio sui mercati finanziari, sono tutti in flessione da stamattina e nel caso specifico le perdite in Europa raggiungono i 3 punti percentuali a Parigi, il 3,4 a Francoforte e il 2,4 a Londra. Milano purtroppo in linea, meno 2,80% il FTSE MIB. Chi cede di più sul mercato? Beh, innanzitutto alcuni titoli legati al mondo bancario: Unicredito perde il 3,70, Fondiaria il 4,70, Generali il 4,5, Alleanza il 4,4%, il Monte dei Paschi il 3%, anche se il titolo peggiore in questo momento è ST Microelectronics, tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde il 6,4%. E poi anche Luxottica perde un 5, Fiat meno 4,3 a 7,5 euro. Citiamo anche Pirelli meno 3,6, visto che parleremo poi di Camfin e del nuovo ingresso in Camfin, e Bulgari meno 3,5, Buzzi Unice meno 3,3, Monte dei Paschi perde il 3% come Mediobanca e Intesa San Paolo, ma anche Italcementi. Chi è positivo? Terna più 2,5, Lecir più 1,2, Campari più 0,80, A2A. Mezzo punto percentuale di rialzo. Pirelli Real Estate è invece il miglior titolo in assoluto, guadagna il 92%, e le Camfin guadagnano il 52%, e avremo uno spazio, ripeto, dedicato proprio a questo. AXA è invece tra i peggiori in assoluto, meno 6,5. Questo per quello che riguarda la borsa. Noi oggi, come abbiamo fatto una settimana fa, torneremo invece sul tema dei consumi, anche perché ieri è uscito un dato che riguarda la grande distribuzione, ma dimostra come la ripresa dei consumi non ci sia stata, anzi c'è un indebolimento ulteriore. La settimana scorsa abbiamo ragionato con l'osservatorio Nielsen da un lato e con Giampaolo Fabris dall'altro delle tendenze, delle dinamiche complessive a cui assistiamo. Oggi ne parleremo con chi gestisce la grande distribuzione, ma non solo, anche i piccoli esercizi commerciali. Poi chiaramente la borsa e le notizie relative alla borsa. Vi daremo anche conto delle dichiarazioni rese oggi dalla Presidente di Confindustria Marcegaglia all'Assemblea di Assolombarda, che ha visto il nuovo Presidente Emma Martini tenere anche la conferenza stampa. E di nuovo Emma Marcegaglia è tornata sui 100 giorni che ha il governo per dare delle risposte concrete ai rischi serissimi che corre il nostro sistema industriale. Pezzi interi di sistema industriale potrebbero non superare la crisi. E poi è tornata sul tema delle liberalizzazioni. Parleremo anche di altre notizie di cronaca e vi faremo riascoltare adesso a brevissimo uno spunto legato alle dichiarazioni rese da Lecce nel corso del fine settimana dal ministro Tremonti. Ultima cifra per i vostri sms: 349-238-6666. Le notizie in breve. Cali pesanti quindi sulle borse e il petrolio si allinea, ossia apre in calo a $71,7 al barile. Che il peggio della crisi ancora non sia passato è opinione invece del direttore generale del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, che ha parlato durante una visita in Kazakistan. Qui iniziano a fiorire i distinguo rispetto all'analisi di una crisi ormai nella parte peggiore alle spalle, tant'è che Strauss-Kahn dice il peggio non è ancora passato. Però lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo, per fortuna, le crescite del PIL americano nel 2009-2010, ossia la recessione del PIL americano nel 2009 quest'anno sarà del 2,5% contro un 2,8%. L'anno prossimo, invece, con una crescita pari a zero, ci sarà, o ci dovrebbe essere, una modesta, però insomma una leggerissima crescita, 0,75%. E sempre il Fondo Monetario dice che la ripresa vera e propria dell'economia americana arriverà solo dalla metà del 2010, quindi questo 0,75% ragionevolmente dovrebbe essere il frutto di una ripresa un po' più consistente da metà del 2010 in poi, invece molto molto stagnante nei primi mesi dell'anno prossimo. E getta acqua sul fuoco anche Timothy Geithner, il segretario del Tesoro americano, che quindi ministro dell'economia, che ha detto: attenzione, l'economia americana si trova di fronte a sfide enormi, c'è ancora parecchia strada da fare e la ripresa economica potrebbe essere più lenta di quanto ci si aspetta. Nel frattempo si è saputo che in Europa sono stati persi nei primi tre mesi del 2009 1.900.000 posti di lavoro, di cui 1.200.000 solo nell'area euro, il doppio rispetto agli ultimi tre mesi del 2008. Non a caso, infatti, il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, concludendo il G8 economico-finanziario sabato scorso a Lecce, aveva espresso molta prudenza. Era tornato con una definizione che già abbiamo ascoltato, adesso vi facciamo riascoltare, sull'idea di una terra incognita che nessuno riesce a leggere con certezza. Ed era tornato anche sul fatto che la speculazione si è di nuovo riaffacciata sui mercati internazionali. Visto che il programma non era in onda nel weekend, io vi farei riascoltare questi due spunti, questi due passaggi dell'intervento del ministro Tremonti. Abbiamo dato atto di alcuni segni fisici e di soft, di indicatori positivi, però non possiamo ancora dire di essere in una terra che ci dà certezza, stabilità assoluta. Siamo ancora in terra incognita. Tuttavia ci sono delle parole, delle formule che dicono che è finita la velocità di caduta, che ci sono segni di stabilizzazione, che ci sono anche segni di ripresa. Insomma, c'è uno scenario che è fatto da tante cose, non tutte negative. Un punto su cui abbiamo discusso alla fine è stata trovata una sistemazione, è la speculazione. La speculazione sta ritornando, quindi è segno che è finita la crisi di liquidità, è segno che una certa finanza sta rialzando la testa, e guarda caso cosa sta facendo, le stesse cose non particolarmente carine che faceva nel giugno, nel luglio dell'anno scorso. E cioè dire, guarda caso, riappaiono i derivati sulle commodities. Devo dire, l'attenzione su questo non è venuta solo dall'Italia, che l'anno scorso segnalava insieme ad altri paesi questo, ma da tutti. Così il ministro Tremonti, mentre oggi la Banca d'Italia ha fatto sapere che il debito pubblico ha toccato un nuovo record. Allora, attenzione, la cosa importante del debito è la sua percentuale rispetto al PIL. È chiaro che ogni anno, diciamo, a livello nominale il debito può aumentare, la cosa importante è quanto pesa sul PIL. Comunque, un nuovo record in valore assoluto ad aprile, 1.750 miliardi di euro, e sempre la Banca d'Italia fa notare come le entrate tributarie, le entrate fiscali, nei primi quattro mesi siano calate del 3,5%, ossia mancano all'appello quasi 4 miliardi di euro rispetto ai primi quattro mesi del 2008. E torna a salire anche il debito degli enti locali, si è attestato infatti quasi a 110 miliardi in aprile, quindi una soglia altissima. Tra l'altro, il debito pubblico italiano, fa sempre notare la Banca d'Italia, pesa su ogni famiglia italiana per 83.000 euro, quindi qualunque famiglia ha 83.000 euro di debito sulle spalle. Praticamente sono 30.000 euro quasi su ogni italiano, neonati compresi. Del presidente del Confindustria Marcio Gaglia, che ha rilanciato l'urgenza di un piano entro 100 giorni, parleremo nella seconda ora del programma. Ci chiedete anche del salone dell'aeronautica, dell'aerospazio, difesa, Le Bourget, che compie 100 anni di vita. Ne parleremo sempre nella seconda ora, perché il settore del trasporto aereo civile versa in gravissime difficoltà, ma c'è più di una novità presentata oggi appunto in provincia di Parigi, come potremmo dire, nei dintorni di Parigi, nel salone che oggi è aperto ai battenti di Le Bourget. Adesso però partiamo con il primo tema, i consumi, come cambiano sia dal punto di vista del mese su mese e quindi come effetto della crisi consumi, ma come stanno cambiando anche a livello strutturale. L'aggancio con la cronaca è rappresentato da quanto ha diffuso l'Istat, ossia non, oggi le retribuzioni, abbiamo visto che le retribuzioni sono cresciute nella maniera più bassa dal 2000, ossia da quando inizia la serie storica rivista, per cui da sempre in teoria. Nei primi tre mesi dell'anno le retribuzioni sono cresciute solo dello 0,1%. Pensate che nei primi tre mesi del 2008 erano cresciute dello 0,6%, quindi siamo a 5 volte tanto. Ma sempre un dato arrivato nel fine settimana è quello relativo ai supermercati. Il carrello della spesa continua a riempirsi poco. La consueta ricerca realizzata con dati Infoscan Census infatti ha registrato, guardando oltre 7.000 tra ipermercati, supermercati e grandi negozi, che nei due mesi, marzo e aprile, la crescita in volume delle vendite del largo consumo confezionato è stata pari allo 0,3%. Quindi ferma rispetto all'andamento dell'ultimo anno, e un quarto della spesa riguarda prodotti in sconto, mentre un anno fa era solo un quinto. Della visione d'insieme avevamo parlato, lo ricorderete, la scorsa settimana, una settimana fa esatta, perché se è vero che i consumi calano, calano drammaticamente quelli dei beni durevoli, elettrodomestici, computer e quant'altro, calano molto molto meno i consumi alimentari, meno 2%, e poi ci sono dei fenomeni interessanti per cui i consumatori sono molto più attenti alla spesa, ma preferiscono spendere qualcosa di più, per esempio per il biologico oppure o per i consumi consolatori, come si chiamano in gergo. Le vendite di Nutella sono aumentate tantissimo, ma anche di champagne di marca, e poi con fenomeni stranissimi, non so, il raddoppio della vendita di candeline per festeggiare i compleanni. Evidentemente si sta più in casa e si esce molto di meno, e il 34% dei consumatori prepara torte, biscotti, pasta e pane. Il 60% dei consumatori fa la spesa con la lista in mano. Insomma, due atteggiamenti abbastanza diversi: da un lato si paga qualcosa in più per la qualità, dall'altro si sta molto attenti alla spesa complessivamente data. Ascoltiamo il giudizio di una settimana fa del numero uno di Nielsen Italia, Stefano Galli, proprio sul buon andamento dei consumi consolatori. La ricerca del risparmio è partita direi nel 2004, un percorso che ha portato i consumatori a essere molto più attenti alle promozioni, ai prezzi e ai canali più concorrenziali. La crisi ha creato nuovi paradigmi di consumo, ad esempio siamo tornati a fare la lista della spesa, c'è un numero sempre più alto di italiani, ad oggi circa un terzo, che ha recuperato la dimensione domestica, quindi tende a preparare più frequentemente il pane, i biscotti, le torte, la pasta fatta in casa. Ci sono anche dei consumi che probabilmente resteranno, degli atteggiamenti che resteranno limitati a questa crisi. Penso ai a quelli che voi chiamate i consumi consolatori. Cosa sono? Consumi consolatori sono, per assurdo, alcuni consumi di prodotti ad alto prezzo, penso alla cioccolata, al vino, sono in aumento. Quindi si tende a mettere nel carrello prodotti a basso prezzo, prodotti in promozione, marca privata, ma anche prodotti di fascia alta, e questo è un comportamento che crossa tutte le fasce di reddito. In generale vediamo delle azioni di risparmio su abbigliamento, beni durevoli. La moda invece è un settore in difficoltà estrema? È la voce su cui le famiglie italiane tendono a risparmiare di più. Il 72% ci ha detto sto spendendo meno per abiti nuovi. Così una settimana fa con il numero uno di Nielsen Italian, Stefano Galli, per quello che riguarda i consumi che probabilmente cambieranno con il termine di questa crisi, con l'uscita definitiva dalle difficoltà economiche. Invece Giampaolo Fabris ci aveva raccontato quali consumi si stanno modificando strutturalmente, quindi resteranno diversi anche quando l'economia tornerà a crescere. tutti i prodotti di sostituzione in cui c'è una notevole discrezionalità nel decidere se cambiare o non cambiare, hanno avuto un rallentamento, si è posticipato l'acquisto. Tra l'altro fra i consumi cosiddetti consolatori, oltre alla lingerie, io direi tutto il settore dei prodotti da make up, si spende meno per acquistare gli abiti, noi non abbiamo più bisogno francamente di un paio di calzoni in più, di una gonna in più, ho rallentato questo tipo di acquisti e francamente senza provare un particolare disagio. Vorrei sottolineare le conseguenze virtuose della crisi, sì. Per esempio abbiamo detto diminuzione della spesa alimentare, però non si dice che in larga misura questa è dovuta al fatto della pressoché totale eliminazione dello spreco nelle famiglie italiane, che pesava tra il 18 e il 22% degli acquisti totali, e si hanno invece comparti alimentari che sono andati in controtendenza, ad esempio il biologico è aumentato dell'8% circa, il biologico mediamente costa circa un 15% in più rispetto al prodotto alimentare di tipo tradizionale, una cosa che dobbiamo dimenticarci che all'uscita del tunnel troveremo un consumatore identico a quello a cui eravamo entrati. Non solo perché è diventato più selettivo, più esigente, più competente, ma anche perché si sta rendendo conto che probabilmente, pur disinvestendo in certe tipologie di acquisti, la sua qualità della vita non diminuisce. E da qui ripartiamo, quindi che cosa si sta modificando per via delle difficoltà economiche, dei timori anche sul futuro, e che cosa invece si sta modificando non in maniera temporanea ma in maniera più strutturale, dagli analisti agli operatori. E quindi ringrazio, siamo in collegamento infatti con i rappresentanti di due marchi molto conosciuti, e da un lato ringrazio e do il buonasera a Giuseppe Brambilla di Civesio, amministratore delegato di Carrefour Italia. Buonasera. E dall'altro direttore commerciale di Esselunga, Gabriele Villa, buonasera anche a lei. Buonasera. Brevemente, Carrefour, secondo distributore al mondo, quindi ha una visione anche internazionale dopo Walmart, 30 paesi in cui opera, in Italia ha un fatturato che l'anno scorso è stato intorno ai 6,5 miliardi, Esselunga, conosciutissima anch'essa, ha una quota del 9% del mercato italiano, 134 punti vendita, fatturato nel 2008 a circa 5,5 miliardi, quindi siete dei soggetti grossi nella grande distribuzione, quasi dei colossi visti i numeri in Italia. Abbiamo ascoltato cosa hanno detto Giampaolo Fabris da un lato e Stefano Galli, mi sono legato alla Nielsen Italia, nella nostra puntata. C'è una modifica nei consumi dovuta a una difficoltà economica congiunturale, c'è però una scelta oltre che una contrazione dei consumi, c'è una scelta diversa, si risparmia su alcuni beni, la moda e altri generi. Si però preferisce spendere qualcosa in più per i prodotti biologici, per certi elementi che hanno il valore di consumi che in quel modo così appagano un desiderio, e penso al cioccolato e allo champagne e anche alla lingerie di cui, a cui facciamo riferimento. E poi, questa è la tesi soprattutto di Fabris, la modifica di questi di queste scelte, di questi atteggiamenti sarà una modifica strutturale, cioè ce l'avremo anche a crisi passata. Vorrei sapere intanto da tutti e due, e inizi pure Giuseppe Brambilla di Civesio, se lo notate questo negli scaffali, se notate che più che di una contrazione forte si deve parlare di una ridistribuzione, ridefinizione della spesa, e poi capire quali sono anche le vostre strategie. Condivido abbastanza l'opinione di Fabris. Sicuramente anche il fatto che, e non solo nel nostro settore dove c'è sempre stata, ma anche in altri si apre qualche piccola concorrenza, fa sì che i nostri clienti sono molto più attenti che in passato. Quindi sono attenti, ricercano l'occasione, hanno un consumo più sobrio, meno ostentativo, e però se c'è qualche buona offerta, magari nel settore dell'abbigliamento piuttosto che nell'elettronica, sono ben interessati a comprare. Quindi è una crisi che porterà a un cambiamento strutturale, perfettamente d'accordo. Cosa stiamo facendo noi? Noi stiamo lavorando per ridare più potere d'acquisto ai clienti, incidentalmente anche lo slogan delle nostre campagne di questi tempi, e quindi stiamo cercando di concentrarci su un'offerta di prodotti base a prezzi interessanti, e stiamo lavorando molto sui prodotti di marchio, Carrefour Italia tra insegne in Italia, GS di Perdì e Carrefour, stiamo unificando le linee del prodotto a marchio per riuscire a passare più convenienza ai clienti e ci sono vari esempi anche di prodotti di base in questo senso. Un'altra area che è importante, lo è maggiormente in questi giorni con questo incremento che sta venendo fuori di nuovo del petrolio e delle materie prime, che a mio parere è abbastanza pericoloso, probabilmente più dato dalla speculazione che da un'effettiva domanda, sicuramente stiamo lavorando molto anche con la benzina che permette ai clienti di risparmiare dai 5 agli 8 cents al litro e quindi è un grossissimo vantaggio per dare più potere d'acquisto. Anche per il direttore commerciale dell'S Lunga, anche voi notate che i consumi consolatori cosiddetti, quelli che appunto riguardano, si citava la Nutella e la crescita della Nutella, insomma che riguardano consumi di beni che hanno un costo un po' più elevato rispetto alla media, però diciamo non hanno un costo eccessivo in un budget familiare e danno una certa consolazione rispetto così a prospettive esterne, a un panorama non certo esaltante, sono in aumento. E notate che invece altri settori sono in forte contrazione? Innanzitutto è vero che ci sono dei grandissimi cambiamenti all'interno degli stili di consumo, lo vediamo soprattutto nella parte alimentare. Io concordo sul fatto che ci sia un cambiamento più strutturale, proprio perché è una cosa che viene da lontano. Noi già dal 2007 ormai si cominciavano a vedere questi grossi cambiamenti all'interno della composizione della spesa dei nostri clienti. Io sostengo che l'atteggiamento del cliente italiano sta diventando sempre più laico, ci stiamo forse sempre più avvicinando a degli stili di consumo più europei, dove il consumatore è più disponibile a cambiare, è più disposto a più facilità di scelta e soprattutto è meno vincolato all'attaccamento alla marca che aveva in passato. In questo cambiamento di consumi si vede sicuramente una grossa focalizzazione sui prodotti più convenienti, quindi su prodotti da primo prezzo, come li chiamiamo noi, e anche sulle promozioni. Io concordo sul fatto che ci sia sempre maggiore attenzione da parte dei clienti nella scelta dei prodotti in promozione. È chiaro che all'interno delle varie merceologie ci sono poi delle andamenti molto, molto diversi. Il cioccolato, come lei accennava, è una merceologia che di per sé sta crescendo ormai da tempo. Ci può essere anche questo tipo di utilizzo consolatorio da parte del cliente del cioccolato, ma io credo che sia anche fondamentalmente dovuto a un cambiamento dell'offerta nel cioccolato. Quindi il cioccolato è diventato una merceologia dove c'è molta più scelta, la qualità è decisamente aumentata e il consumatore oggi è molto più conscio di quelle che sono le scelte all'interno di questa merceologia in particolare. Il cioccolato per noi chiaramente era un esempio, cioè quando vediamo che tengono i consumi di champagne anche di alta qualità e appunto i beni più cari, capiamo che non è semplicemente un consumatore, certo, molti hanno difficoltà nella quarta settimana, ma in generale non è un consumatore che solo deve risparmiare. Dicevano appunto sia Galli che Fabris nella puntata scorsa che si è tornati a vedere la lista della spesa, quindi quello che arriva in supermercato con tutti i beni che deve comprare per non sbagliarsi, per non farsi prendere da un eccesso di consumo compulsivo, come lo chiamano i sociologi. Però al di là di questa attenzione maggiore per il prezzo qualità, poi ci sono dei settori in cui appunto la gratificazione è alta e tengono. Vorrei capire le strategie che avete messo in campo, perché vedo anche al 349-238-6666 molti ascoltatori scrivono: vabbè, però se volete che i consumi ripartano anche in maniera massiccia, occorre che i prezzi, diciamo, il rapporto prezzo qualità e i prezzi calino. Sappiamo tutte delle polemiche nel passaggio lira-euro. Carrefour, che immagino abbia delle strategie anche su base europea, come si sta muovendo alla luce del consumatore che avete appena raccontato? No, le faccio alcuni esempi. Sicuramente stiamo lavorando sui prodotti a marchio, inoltre sicuramente i prodotti Carrefour. Ci sono i prodotti che oggi possono essere trovati a metà del prezzo delle marche con una qualità uguale e in alcuni casi anche migliore, devo dire, e quindi sicuramente questa è una grande opportunità. Stiamo lavorando sulle promozioni e sui prezzi. L'ultima operazione ci siamo divertiti a prendere i prezzi del 2001 e vedere se riuscivamo a fare dei prezzi più bassi, e ci siamo riusciti. Cito un caffè che costava 4,59, la stessa marca, lo stesso prodotto, ora l'abbiamo venduto a 4,39, e lo stesso una famosa marca di dentifricio, era 5,79, è diventato 4,89. Questo è un segno che sicuramente i consumatori hanno visto e stanno rispondendo positivamente. Altra cosa, su alcune piazze italiane, su alcune regioni dove ci teniamo, dove abbiamo visto dei prezzi effettivamente alti storicamente, cito la Liguria per esempio, abbiamo fatto una grossa operazione di ribasso prezzo appunto per venire incontro a situazioni dove c'è più crisi, più difficoltà e dove c'è un problema, diciamo, di mantenere la domanda e rilanciare il turismo. Quindi queste sono un po' le azioni che stiamo facendo. Sono simili, ha citato altri paesi, a quello che il gruppo sta facendo anche in Spagna e in Francia, perché lo scenario, almeno su questi grandi paesi d'Europa, non è molto differente, anche se in alcuni paesi, tipo la Spagna, forse la crisi morde ancora più che da noi. Avete anche lanciato tutto un insieme di iniziative, adesso non voglio fare assolutamente promozione, e lo sapete, in questo programma, però un insieme di iniziative, questo mi interessa come strategia invece di impresa, di fidelizzazione, come si chiamano le varie carte che permettono poi di raccogliere punti, oppure nei di per di l'abbassamento di prezzo in automatico ogni giorno di alcuni marchi, cioè c'è questo tentativo di mostrare prezzi più bassi? Sì, è noto che sia noi, ma come tutti i colleghi della distribuzione, abbiamo anche ampiamente combattuto per cercare di avere riduzione di prezzi ed opporci soprattutto nella prima parte dell'anno con alcune industrie che avevano chiesto gli aumenti di listino, a nostro parere non giustificati, e questo credo che indipendentemente l'ha fatto ogni distributore in maniera abbastanza forte. Per quanto riguarda il tema della fedeltà, abbiamo fatto un'operazione che va incontro ai clienti, avevamo dei sistemi di fedeltà differenti per nostre insegne, l'abbiamo unificato, nel senso che i vantaggi che puoi acquisire in un Iper Carrefour oggi puoi andare a spenderli in un piccolo di per di sotto casa se hai bisogno di passare lì. Beh, voglio dire, già io lo dico in questo caso da consumatore, da chi va a fare la spesa tutte le settimane nel negozio alimentare, ma anche nel grande centro, già insomma il fatto che questa crisi vi abbia spinto a nuove iniziative, per noi è un vantaggio, sarà anche un vantaggio limitato, ma è un vantaggio. Dottor Villa, c'è un tema che su cui sia soprattutto Fabris, ma anche Galli della Nielsen avevano insistito molto, ed è il fatto, attenzione, che poi noi vediamo che alcuni beni, il caso del biologico è un caso emblematico, i beni biologici, i prodotti biologici costano tanto, delle volte quasi il doppio rispetto all'ortofrutta o altri prodotti non biologici, eppure lì c'è un incremento nella spesa, il che sta a dire posso spendere qualcosa in più se la qualità che ottengo nel prodotto è molto alta, e anche perché stiamo parlando di qualche euro, e quindi non rinuncio a un principio di salute, di maggior benessere, ecologista, chiamiamolo come vogliamo, piuttosto rinuncio al maglione, rinuncio alla gonna, rinuncio a altri consumi di marca. Dunque, è vero. Innanzitutto il prodotto biologico che era esploso subito nel 2000 quando era stato lanciato ha subito poi un po' una battuta d'arresto, e io concordo con quello che lei accennava prima sul fatto che oggi invece c'è un forte recupero da parte del consumatore sui prodotti biologici, che da noi ad esempio stanno crescendo di oltre il 14%. E la tendenza complessiva invece è avere un consumatore che, ripeto, lasciamo stare solo il biologico, parlo in generale in questo caso, che utilizza un'attenzione molto forte sui 2/3, i 4/5, non mi interessa, della spesa, però poi va anche a scegliere la qualità pagando un po' di più, ma se la qualità è alta, questo lo notate come si lunga? Sì, come accennavo prima all'importanza e al peso che hanno i prodotti da primo prezzo, certo, i prodotti più convenienti, che dall'altra parte ha come contraltare invece la crescita dei prodotti di fascia molto alta, quindi all'interno di ogni merceologia vediamo sia una crescita del prodotto del primo prezzo, sia una crescita del prodotto di altissima gamma, quello che noi chiamiamo il prodotto top, quello è un prodotto che continua a crescere. Quali beni vedete invece nettamente in calo quanto a volumi, e quindi immagino poi anche questo inciderà sul prezzo finale? Dottor Di Civesio. Decisamente in calo, a parte che non si tratti di settori particolari, non è che abbiamo delle cadute drammatiche. Quello che io vedo è un consumatore molto più informato. Sui beni durevoli, prima di venire da noi, ha già surfato su internet e ha trovato le varie alternative ed è ben disposto a spendere di più per l'innovazione tecnologica. Evidentemente, di conseguenza, tutti i prodotti che non reggono l'innovazione tecnologica, questi li vediamo moltissimo in calo. Nell'alimentare sono in calo, ma sono trend classici, alcuni prodotti alcolici, superalcolici, alcuni trend, ma che sono più di lungo periodo. Questo per quello che riguarda Carrefour, dottor Villa? Confermo, noi non vediamo nessun calo particolare che non sia un calo dovuto a trend di medio-lungo periodo. Forse c'è stato un calo di prodotti come quelli di quarta gamma, quindi parliamo delle insalate pronte, che avendo un costo euro chilo molto più alto rispetto al prodotto convenzionale hanno subito una battuta d'arresto. Altri grandi cambiamenti non li abbiamo verificati. Beh, fortunati voi, verrebbe da dire. Non so se perché il consumo alimentare, come tutti sappiamo, sia difficilmente comprimibile, poi ci si rinunci comunque per ultimo, come diciamo, come rinuncia all'acquisto, però insomma sentire che nel settore alimentare della grande distribuzione grossi cali non ci sono stati è una musica abbastanza rara in questo periodo nei settori produttivi. Grazie a Giuseppe Brambile di Civesio, amministratore delegato di Carrefour Italia, e grazie a Gabriele Villa, direttore commerciale di Esselunga. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, grazie, buongiorno. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, molti commenti che sono arrivati nel frattempo alla seconda puntata a distanza di una settimana che dedichiamo al tema dei consumi. Cerco di sintetizzare. Allora, da un lato c'è chi ci manda a quel paese perché abbiamo detto, non solo sottoscritto, che si assiste a una polarizzazione per cui uno va al supermercato con la lista della spesa per non comprare più di quanto dovuto, però poi si concede qualche consumo consolatorio. Mi dispiace, è così. Non vuol dire solo la bottiglia da 50 euro, vuol dire anche la cioccolata un po' più cara o il prodotto di qualità. Non, anche perché le differenze sono di qualche euro, qualche decina di euro, mentre le rinunce vere sono quelle appunto che costano centinaia di euro o migliaia di euro, come nel caso dei beni durevoli. Altro commento che arriva frequentemente invece è quello sulle spiagge, gli alberghi sempre pieni, i fine settimana in coda, ma dov'è questa crisi nei consumi? Allora, questo è un tema invece più delicato, fermo restando che uno può fare un po' meno vacanze e fare qualche weekend in più, e vorrei girare la domanda al presidente di Fipe Confcommercio, Lino Stoppani, buonasera. Buonasera a lei e ai vostri radioascoltatori. Voi raggruppate 230.000 tra ristoranti, bar, locali pubblici e discoteche. Stabilimenti balneari. E stabilimenti balneari. Insomma, tutto quello che molti ascoltatori vedono sempre pieno, introvabili posti, lettini, le prenotazioni. Poi lei, per inciso, per divertimento, è anche proprietario di PEC a Milano, quindi sui consumi di... di lusso, un osservatorio allargato. Allargato, insomma, ristretto. PEC allargato è il negozio più caro di Milano. Vabbè, comunque, non voglio parlare di PEC, voglio parlare di consumi. Allora, presidente Stoppani, questa battuta però la sentiamo fare molte volte. Ma dov'è questa difficoltà nei consumi se poi nei ponti, il fine settimana, i ristoranti? A voi questo risulta o no? No, certamente quelle che sono le presenze non sono diminuite, almeno nei ristoranti, ma sono molto diminuiti quelli che sono i fatturati, perché la gente probabilmente ha la necessità comunque di frequentarli per necessità o per quelli che sono gli aspetti per i quali ci portano fuori casa, ma c'è certamente una diversa attenzione a quelle che sono le modalità di spendere. Insomma, tra l'altro bisogna poi distinguere, almeno nel settore dei pubblici esercizi, tra i consumi per necessità, e quando parlo per necessità non so, parlo per esempio delle colazioni, delle pause pranzo, dove bene o male una persona deve mangiare, per cui una esigenza di carattere fisiologico, e questi operatori che hanno questo tipo di clientela certamente hanno una flessione del loro fatturato, ma è un business che comunque tiene alimentato anche da quello che è il sistema di buoni pasto o da strumenti che lo favoriscono, no? La soluzione cos'è? Abbassare un po' i prezzi dei vostri esercizi? Perché insomma nessun tacchino anticipa il Natale, però vi dico, sappiamo che col passaggio lira euro un po' di ritocchi a 1000 lire un euro ci sono stati, non magari generale. Però dico, a provare a abbassare i costi di alcuni beni offerti? Lei mi insegna che quella che sono la gestione economica di un pubblico esercizio è caratterizzata da due elementi pesantissimi nella gestione dei costi fissi, che sono A, gli affitti passivi, sì, dove evidentemente se a mia volta trovassi la stessa disponibilità del mio proprietario dell'immobile potrei valutare questa prospettiva. B, quello che è il vincolo del personale, che al di là del fatto che si possa lavorare di più o di meno ha delle garanzie, per cui è difficile da muoversi questi due principali costi fissi. A mio avviso poi ridurre i prezzi sarebbe forse sbagliato, secondo me è quello di poter dare qualche cosa più allo stesso prezzo, non solo in termini di maggiore attenzione e cortesia per il cliente, ma anche in termini anche di proposta, per cui so che molti nostri operatori hanno fatto dei pacchetti per le colazioni o per le cene dove in aggiunta a quello che potevano prima permettersi per stimolare anche un po' i consumi fanno quelle che sono dette promozioni per incentivare. Presidente Stoppani, mi dica i settori o anche le abitudini al consumo, visto che Gianpaolo Fabris ritiene che alcune di queste modifiche saranno strutturali, non si tornerà più indietro, si impara a stare bene anche senza alcuni beni, anche senza certi consumi compulsivi, come li ha chiamati lui. Alcune modifiche che voi vedete abbastanza strutturalmente, altre che invece altri consumi che tengono, così giusto per dare un per esempio è sparito quello che è la colazione di lavoro della pausa pranzo, insomma, e anche chi era abituato a mangiare a mezzogiorno oggi mangia in un modo diverso, si limita magari ad un piatto, c'è una deviazione verso dei consumi paralleli, per esempio vedo per esempio sulla zona di Milano nella pausa del mezzogiorno molte persone anziché mangiarsi il solito panino oggi magari si indirizzano verso il gelato, verso un cappuccino con un caffè, per cui c'è anche un aspetto di modifica di quello che è il modo di mangiare soprattutto nel mezzogiorno. La sera invece, che è uno alla sera esce o per piacere, per compagnia, per altri motivi, qui ci sono due tipi di lavoro. C'è il lavoro che riguarda i cosiddetti ristoranti stellati che bene o male hanno un po' un'indifferenza al prezzo, mentre invece tutta l'altra categoria di ristoranti tradizionali eccetera stanno soffrendo, e quelli che sono i nostri dati è certamente una situazione di crisi del settore, soprattutto in termini proprio di fatturati. Se non cambia il vento e la ripresa che di cui ogni tanto si sente parlare, potrebbe lasciare sul campo 20.000 imprese con circa 100.000 occupati in meno nel settore, che sono numeri di estrema preoccupazione, insomma. Guardi, le leggo per salutarci un messaggio, immagino, di un suo associato che dice: ho un albergo pieno ma le tariffe che pratico sono il 30% in meno e non si vedono né extra né mance. Forse perlomeno nella parte più, diciamo, di traghettamento dell'uscita da questa crisi anche le tariffe potrebbero avere il loro ruolo. Lei parla però degli alberghi dove effettivamente c'è stato e c'è una riduzione drastica di quelle che sono le presenze, dove chiaramente vanno stimolati quelli che sono le presenze in un certo senso. Nei pubblici esercizi, e gli alberghi sono sono i nostri cosiddetti cugini, quella che è comunque il numero delle presenze, anche se sono in caro, comunque tengono. E il riscontro che noi abbiamo certamente è un riscontro di minor capacità di spesa da parte del consumatore. È chiaro che di fronte a questo passaggio ci sono da fare essenzialmente, a mio avviso, due cose. Primo, quello di non dequalificare l'offerta, scadendo in quella che è la materia prima, il servizio, tante cose che i suoi ascoltatori conoscono benissimo. L'altro, quello di riuscire a dare con lo stesso prezzo qualche cosa in più, che potrebbe essere il caffè finale, un digestivo, un'attenzione, un qualcosa in più sul servizio, insomma. E su questo molti pubblici esercizi so che stanno per anni, insomma. No, sono d'accordo, se mi faccio chiudere con una battuta, certo che se io salto la pausa pranzo, se poi mi date anche un digestivo, un caffè, mi viene un'acidità, una cirrosi immediata. Comunque no, grazie Presidente Stoppani, Presidente della Fipconfcommercio. Di nuovo in diretta, parliamo adesso di borsa, lo dico a chi continua a scrivere messaggi giustamente sul tema dei consumi. Può essere, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, che da questa difficoltà dell'economia, di questa crisi e anche preoccupazioni per il futuro esca un consumatore forse meno compulsivo nei consumi, quindi anche qualche beneficio in chi fa l'offerta. Tutti un po' si adattano, qualcosa secondo me sui prezzi invece si sta muovendo, poi probabilmente a livello ufficiale non si può dire, ma qualcosa si sta muovendo soprattutto nei settori in maggiore difficoltà. Chiaro che il ristorante cruciale, la località che sfrutta la sua posizione geografica, quelli abbassano meno. Comunque la borsa, meno 3% FTSE MIB, meno 3,20 Parigi, meno 3,5 Francoforte, meno 2,60 Londra. L'euro è sceso sotto quota 1,40, 1,37 il petrolio sotto quota 72 a 71,7. Parecchio male oggi assicurativi bancari, Unicredito meno 4,40, Generali meno 4,30, Alleanza meno 4,30 pure, e anche il Banco Popolare, Fondiaria meno 5 e Intesa meno 3,3 come Mediobanca. È finito il rimbalzo, lo chiediamo a Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Ma difficile da dire, sicuramente le borse europee già la scorsa settimana avevano preso una pausa di riflessione, in quanto è vero, va considerato che dal 9 di marzo hanno registrato un rialzo veramente consistente, ad esempio il FTSE All Share, che sarebbe il vecchio MIPTEL, dal 10 di marzo a venerdì scorso aveva guadagnato circa il 60%, e questo sull'attesa che l'economia migliori, ma per adesso, anche se ci sono stati segnali di miglioramento, si è ancora lontani dal parlare di ripresa. Per la precisione, sono stati segnali di un rallentamento del peggioramento, perché questo è, diciamo, quello che noi vediamo, che la situazione non peggiora con la velocità con cui è peggiorata fino, diciamo, a marzo-aprile. Però in effetti tu ricordavi che la borsa stava scontando, secondo molti, un po' troppo una visione, uno scenario un po' troppo ottimistico. Certo, alcuni titoli erano molto molto bassi, valevano quotavano meno dei mezzi propri, però insomma un più 60 è tanto. Oggi dicevamo bancari, ma anche Fiat meno 4,5, Luxottica meno 4,5 ed ST Microelectronics che perde 6,80%. Allora, visto che parleremo dopo di Telecom, ma soprattutto parleremo dopo di Camfin Pirelli di Real Estate, concentriamoci su Fiat e ST Microelectronics. Sì, guarda, innanzitutto va detto in generale che oggi sono andati molto male tutti i titoli più legati al ciclo, quindi ad esempio le auto sono andate male in tutta Europa, meno 5% il sottoindice Stock 600, e questo perché si è tornati a avere dubbi appunto su quello che sarà l'andamento dell'economia, anche alla luce del fatto che l'indice che misura l'attività industriale a New York nel mese di giugno è andato molto male, è scivolato molto oltre le attese degli analisti. Fiat pertanto ha accusato il contraccolpo, ma come tutti i titoli europei dell'auto e un po' come tutto il settore, diciamo, più ciclico. ST è andata ancora peggio, ha perso quasi il 7%, ma questo perché hanno pesato le dichiarazioni di Guarguaglini, che è il presidente amministratore delegato di Finmeccanica, e che a Parigi al salone appunto dell'aerospazio ha dichiarato che l'azienda Finmeccanica, che detiene il 3,2% delle azioni di ST, le cederà entro fine anno, quindi questo ha dato il là ovviamente a tutti quelli che sono gli ordini in vendita, visto che si teme a questo punto che l'operazione possa appunto tenere basse le quotazioni del titolo. Allora, bene invece le CIR, la Galeazzi De Benedetti più 0,4, bene in questa giornata. Terna più 2,5. Invece gli altri energetici soffrono. Enel perde l'1%, ma non è l'unica. Eni perde il 2,5%, Saipem il 2,7%. E visto che avete sapere anche di Monte dei Paschi e Telecom meno 3%, Monte dei Paschi meno 3% anch'essa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento dedicato alle borse e poi passare alla vicenda Camfin, alcune dichiarazioni della Presidente di Confindustria Marcegaglia e la risposta del Ministro Scajola, e poi parlare del Salone di Le Bourget, il salone più importante al mondo, penso, assieme a quello di Farnborough, ma si alternano di anno in anno nell'aerospazio, nell'aviazione civile e anche nella difesa, che quest'anno compie 100 anni. Comunque andiamo con ordine. Eleonora Micheli, restavano fuori Telecom meno 3% e Fiat che ha subito un calo più consistente, meno 4,5%. Ma guarda, oggi appunto si è preso un po' beneficio su tutti i titoli appunto che risentono maggiormente dell'andamento dell'economia. Le Fiat sono andate male, d'altra parte hanno fatto addirittura meglio di altri concorrenti europei. Il sottoindice Stock 600 ha addirittura perso il 5%. Devo dire che sono uscite nel frattempo anche delle agenzie che in qualche modo potrebbero giustificare il perché di mercati così negativi, ripeto, perdite tutte intorno al 3%. La Banca Centrale Europea ha stimato che le banche commerciali dei 16 paesi dell'area euro potrebbero perdere entro la fine del prossimo anno altri 283 miliardi di euro. Auguri, anche se non vengono fatti i nomi. E poi il fatto che la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la BERS, abbia detto oggi che il peggio della recessione deve ancora arrivare, lo ha affermato il capo economista Erik Bergloff. Una volta c'era il gufo, lasciamolo un po' in vacanza ancora per un po', vediamo se sono casi isolati, perché fa il paio la dichiarazione di oggi con quella di Strauss-Kahn del Fondo Monetario, che ha detto il peggio della crisi ancora non è passato. Non vorrei che adesso iniziasse un coro di attenzione, forse il peggio non è ancora passato e si sposta in là il tempo della ripresa. Comunque, questo per quello che riguarda i titoli principali, l'andamento dei bancari in particolar modo. I migliori e peggiori, dicevamo, Pirelli più 100, Real Estate più 102%, le Camfin più 52%. Allora, nel ringraziare Eleonora Micheli, Radio Colli Sole 24 Ore, parliamo proprio delle Camfin e diciamo delle società che fanno capo a Marco Tronchetti Provera. Che cosa è successo? Venerdì scorso il consiglio di amministrazione di GPI, la società che è controllata da Marco Tronchetti Provera, a cui fa capo il 58% di Camfin, ha annunciato di aver ceduto a Ofima, società della famiglia Malacalza, il 3,5% di Camfin per un valore di circa 12,2 milioni di euro. E l'ingresso ai nuovi soci rientra nel piano di riassetto e messa in sicurezza della cassaforte Pirelli, arriva contestualmente all'annuncio di un aumento di capitale da 100 milioni di Camfin e la ristrutturazione del debito verso le banche. E il nuovo socio Fima potrà incrementare la partecipazione fino al 10% dopo l'aumento di capitale, e quindi il prezzo di vendita è pari a 95 centesimi di euro per azione, 4 volte superiore al valore di borsa di venerdì, che era 25 centesimi. Oggi si è già portato a 40 centesimi di euro. Dichiarazioni Marco Tronchetti Provera al margine dell'assemblea di Assolombarda oggi, al microfono del nostro Massimo Di Scienza. Il mercato le valuterà dal punto di vista industriale. Noi abbiamo rafforzato le strategie di Camfin grazie a un socio industriale che ci sarà a fianco nelle diverse iniziative che abbiamo in mente. È una parte degli accordi che loro, avendo fiducia nell'azienda, tendono a crescere, pur rimanendo evidentemente il controllo di Camfin in mano a GP. Antonella Olivieri, tra l'altro oggi è partito anche l'aumento di capitale di Pirelli Real Estate, per cui anche su quello bisogna stare attenti, perché vengono emesse molte più azioni di quante ce ne siano in circolazione. Comunque, Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ciao. Ciao Antonella, ci riesci a tenere assieme da un lato la ristrutturazione di Camfin? La famiglia Malacalza è una famiglia di imprenditori genovesi che è attiva dagli anni 60 nel settore acciaio, tecnologia e impiantistica. Se riusciamo a tenere assieme sia l'andamento di Camfin e diciamo il piano di Marco Tronchetti Provera con quello di Pirelli Real Estate. Diciamo che in borsa ci sono state dei rialzi spettacolari sia su Camfin che su Pirelli Real Estate, è un dato comune, però le situazioni sono abbastanza differenti. Nella cassaforte, nella Camfin, la valenza dell'operazione è industriale e finanziaria, nel senso è stato sistemato l'assetto finanziario della Camfin anche con la previsione dell'aumento di capitale e la rinegoziazione del debito con le banche, ed è stato trovato un nuovo socio col quale si svilupperanno iniziative, si vedrà come, ma che nel frattempo ha pagato un biglietto d'ingresso molto superiore ai prezzi attuali, 0,95 per azione per la prima tranche che ha sottoscritto, quando il prezzo era intorno a 0,26 venerdì, quindi diciamo, evidentemente crede di poterci guadagnare, che il gruppo valga di più di quel che vale oggi in borsa. Poi il flottante è molto scarso. E come mai hanno accettato di comprarle a 90 e passa centesimi, 95 centesimi di euro per azione, se ne valevano 26 e anche oggi dopo un più 50% sono a 40 centesimi? E questo non sarà il prezzo a cui sottoscriverà fino al 25%, perché il primo 3,5% viene pagato 95 centesimi, dopodiché il prezzo per il primo 10% e il fino al 25% è tutto da definire, evidentemente sarà più basso, ma nel frattempo paga un biglietto d'ingresso salato per entrare in partnership con Tronchetti, col quale verrà stretto un patto di sindacato. Poi il prezzo finale è destinato a diluirsi molto rispetto, certo, allo 0,95 pagato all'inizio. Chiaramente. Questo per quello che riguarda la valenza sia finanziaria, cioè di aumentare le risorse fresche, che industriale nelle Camfin, nella Camfin. Pirelli Real Estate più 102% a 1,4 euro? Ecco, non vorrei fare un paragone che può sembrare un po' strano. Io però so già cosa vuoi dire. C'è una pagina gialla. Tipo Seat, esatto. Cioè, il senso è questo titolo ha un flottante più o meno poco meno del 50%. Flottante è il numero di azioni di una società che sono trattabili in borsa. Ecco, questo tutto il capitale sono 42 milioni di azioni circa, e ne verranno emesse circa 800 milioni. È intuitivo che il capitale vecchio rispetto al capitale nuovo è irrisorio, tant'è che il flottante attuale, cioè le azioni in circolazione, che sono circa poco più di 20 milioni di azioni, nella società post ricapitalizzazione varranno appena il 3% del totale, pochissimo. Basta che ci sia qualche scoperto, e pare che ci fossero dei grossi scoperti su Pirelli Real Estate a parte di hedge fund, e che i titoli vengano richiamati, per cui si scatena una corsa al titolo, essendo che le azioni nuove non sono ancora state emesse, quelle vecchie sono poche, ha questo effetto sulle quotazioni. Però in prospettiva più o meno il prezzo si assesta esattamente come è successo con la Seat, cioè è destinato a scendere perché vengono emesse nuove azioni a 0,50. Grazie anche per quest'ultima spiegazione a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Forse abbiamo perso il collegamento nel finale con Antonello Olivieri. Alcune risposte alle vostre domande. Per quello che riguarda il tema del consumo, non possiamo tornare sul tema di apertura. Dico solo che insomma vedremo i dati nei prossimi mesi anche sui consumi di beni non durevoli. Il gufo, a chi ce lo chiede, non lo mandiamo, perché sono le prime avvisaglie di dichiarazioni che forse il peggio non è ancora passato, però aspettiamo un attimo, ci sarà modo per il gufo. Ultima parte di Focus Economia, e allora botta e risposta, chiamiamolo così, tra il ministro Scajola e la presidente Confindustria Emma Marcegaglia. Emma Marcegaglia oggi, nel suo intervento durante l'assemblea di Assolombarda, che ha visto insediarsi il nuovo presidente Mario Martini, è tornata sui 100 giorni che il governo ha a disposizione per lanciare un piano di aiuto al sistema produttivo. Scusatemi, ricordando, come aveva già fatto Santa Margherita, che i prossimi mesi sono decisivi, che le imprese vanno sostenute, perché nonostante i piccoli segnali di miglioramento si rischia di perdere una parte del nostro sistema produttivo e soprattutto quello delle piccole e medie imprese. Il ministro Scajola nel suo intervento ha detto che tra i prossimi impegni del governo non c'è solo il federalismo fiscale, ma che qualcosa verrà fatto anche per le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali. Bisogna ora fare ulteriori passi avanti, e mi rivolgo in particolare a voi imprenditori, alla vostra presidente Marcegaglia, nel settore dei servizi pubblici locali, avviando un confronto con le forze politiche, con le categorie interessate, per favorire la liberalizzazione, la riorganizzazione del settore che sia a vantaggio dei cittadini, delle imprese, dei territori per un costo inferiore dei servizi e una maggiore qualità dei servizi stessi. A stretto giro, nel senso che poco dopo è intervenuta la presidente di Confindustria Marcegaglia, il commento sui passi indietro, anzi l'affermazione sui passi indietro invece fatti secondo la Marcegaglia dal governo proprio sul tema delle liberalizzazioni. Sulle liberalizzazioni accolgo e sono molto contenta di quello che ha detto il ministro Scajola. Noi pensiamo che ci sia ancora molto da fare e in particolare sui servizi pubblici locali, dove dobbiamo dire che però fino ad oggi abbiamo fatto addirittura, il governo ha fatto un passo indietro rispetto al passato. Siamo in tempo per intervenire, siamo in tempo per migliorare e Confindustria su questo sarà una voce forte, ferma, di grande collaborazione con chi vorrà fare queste riforme e anche con, come voce di denuncia per chi si opporrà a queste riforme, perché poi siamo tutti dei grandi liberalizzatori, però poi quando ci vengono a liberalizzare i nostri settori siamo sempre un po' meno liberalizzatori. Così sulle liberalizzazioni, e adesso l'ultimo tema di questa puntata. Non è che il settore dell'aerospazio e dell'aeronautica civile se la passi molto bene, non solo le previsioni della IATA, un disastro peggiore dell'11 settembre quanto a passeggeri nel 2009-2010, ma anche la flessione degli ordinativi, tra 70 e 200 velivoli in meno per gli ordinativi degli aerei a fronte dei 302 salone di Farnborough del 2008, dei 507 di Le Bourget 2005. Questo è il dato infatti previsto per Le Bourget di quest'anno, il principale salone al mondo per questo settore. Flessione quindi attesa per il giro d'affari. In vista del rinnovo della flotta, United Airlines ha annunciato la decisione di lanciare una sorta di gara rivolta a Airbus e Boeing per ottenere l'offerta migliore. E poi c'è la presenza della nostra Finmeccanica, che è leader negli elicotteri Augusta Westland, ma anche negli aerei da trasporto civile e militare. E allora è a Parigi, o vicino a Parigi, a 40 km quasi da Parigi, alle Bourget, il nostro Enrico Pagliarini. Buonasera Enrico. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, che clima si respira al salone di quest'anno di Le Bourget, viste le difficoltà del settore complessivamente, soprattutto quello civile? Piove anche, diciamo, nei conti, oltre che sulle piste? Dici bene, perché oggi è stata una giornata di pioggia, adesso la pioggia è terminata, ma quello che si è aperto oggi nel vecchio aeroporto parigino di Le Bourget è anche il salone del centenario. Si festeggia un pochettino perché gli organizzatori festeggiano il record di presenze con circa 2.000 espositori da 48 paesi del mondo, ma forse non c'è altro da festeggiare. Questo salone cade, lo dicevi anche tu, in uno dei peggiori anni anche per l'aviazione. I due costruttori principali, Boeing e Airbus, hanno sempre gareggiato nell'annunciare contratti con le compagnie aeree. Quest'anno invece gli annunci sono molto pochi. Oggi Airbus ha firmato un contratto per 24 A320 con Qatar Airways, ma si tratta insomma di ben poca cosa rispetto agli anni passati. Sappiamo che entrambe le società hanno rivisto i piani di produzione. Airbus prevede una possibile riduzione delle consegne tra il 15 e il 25% tra il 2010 e il 2011, mentre per il 2009, nella migliore delle ipotesi, potrebbero mantenere i livelli visti lo scorso anno. Ma c'è da dire che sia in Europa che negli Stati Uniti c'è un cauto ottimismo per il futuro, per i prossimi anni, sia perché gli ordini totali, non dimentichiamo, da evadere sono più di 7.000, parliamo delle due società, parliamo di 3.500 aerei per Airbus e 3.700 per Boeing, sia perché secondo il costruttore americano nei prossimi 20 anni il traffico passeggeri crescerà di circa il 5% all'anno e questo dovrebbe spingere le compagnie all'acquisto di nuovi aerei più efficienti. Tra i grandi protagonisti, lo dicevi anche tu, c'è l'industria aerospaziale italiana. Tra parentesi, ho contato più di 60 aziende del nostro paese, molte piccole aziende, prima fra tutte però c'è il gruppo Finmeccanica guidato da Pierfrancesco Guarguaglini, che così a Radio 24 ha parlato dell'impatto della crisi globale. Finmeccanica chiaramente ha degli impatti diversificati a seconda del business. Per quanto riguarda difesa e sicurezza, l'impatto è minimo perché molti governi continuano a spendere e a investire, specialmente in sicurezza per quanto riguarda border control o il controllo di strutture critiche tipo pozzi petroliferi, e lì noi siamo presenti. Per quanto riguarda attività tipo i trasporti, i governi stanno investendo e anche qui la crisi non si fa sentire. Si fa sentire un po' nell'energia perché ci sono meno investimenti, ma l'energia energia è abbastanza forte e sta resistendo bene. Per quanto riguarda l'elicotteristica civile, sicuramente c'è meno investimenti a parte di elicotteri per VIP oppure anche per industrie. E infine un po' si sente anche nel campo dell'aeronautica civile, dove però il ritardo di Boeing in un certo senso attenua, perché noi abbiamo molto backlog da smaltire e quindi in questo campo, anche se Boeing non ha ricevuto ordini, su noi per ora non ha incidenza. Quindi, come ho detto, se la crisi dura fino a fine di quest'anno, inizio del prossimo anno, in questo campo l'incidenza sarà minima. Ecco, al di là dei confini del gruppo, lei come vede la situazione economica globale? La situazione economica globale desta chiaramente delle preoccupazioni, perché gli stati, creandosi un debito consistente, fanno pensare che poi un giorno partirà l'inflazione che attenua questo debito e che penalizzerà l'industria, perché diciamo, lavorare in un mondo dove l'inflazione può essere alta non facilita il valutare i costi futuri e quindi rende più difficile essere competitivi globalmente. Però, come sempre succede, uno deve stare calmo, prepararsi ma non precorrere troppo, perché se uno si fascia la testa poi si preoccupa e basta. In alcuni settori la crisi ha contribuito, sta contribuendo ad un consolidamento. Che cosa sta succedendo nel vostro settore? Voi vedete la possibilità di acquisizione, di nuove acquisizioni? Noi dobbiamo stare attenti al nostro debito e quindi prima di acquisire bisogna ridurre il debito, fortificarsi, poi pensare. Chiaramente noi pensiamo a delle acquisizioni piccole e mirate, non acquisizioni grandi come è stata DRS, e questo secondo me sarà vero per almeno i prossimi 3 o 4 anni. Lei ha parlato di DRS, dagli Stati Uniti arrivano notizie positive ma anche negative, parliamo dell'elicottero presidenziale, nelle prossime ore ci sarà un incontro del Presidente del Consiglio con il Presidente degli Stati Uniti. Lei pensa che possa arrivare qualche notizia, uno sblocco della situazione per l'elicottero presidenziale? Qualche notizia penso che venga, se sia positiva o negativa lo sapremo domani. Oggi uno aspetta. Lei ha ricordato molti paesi dove voi siete presenti. Parlando dell'attualità, oggi in Italia si parla molto di Libia. Qual è il rapporto che voi avete con questo paese? Molto amichevole. Noi lì siamo presenti e tra poco inaugureremo un stabilimento per l'elicotteristica. Dobbiamo fare il controllo della parte sud del paese, del confine sud del paese. Abbiamo altre attività nei trasporti. Abbiamo attività per quanto riguarda la parte elettrottica e per quanto riguarda la difesa. Io credo che nei prossimi anni la Libia ci darà molte soddisfazioni. Dunque questo Pier Francesco Guarguaglini, numero uno di Finmeccanica, che abbiamo incontrato oggi. A proposito di nuovi aerei, Boeing ha confermato questa mattina che entro la fine del mese l'atteso e rivoluzionario 787 Dreamliner effettuerà il primo volo in assoluto, mentre qui a Parigi ha volato per la prima volta davanti al pubblico il nuovo Superjet, un regionale da 100 posti della russa Sukhoi, a cui partecipa anche Alenia Aeronautica con una quota del 25%. Da Parigi è tutto, vi auguro una buona serata. Buona serata anche a te Enrico Pagliarini, è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisone un rinnovo, l'augurio di Pagliarini, buona serata a voi tutti, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.